Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. I would swallow bumblebees for you. And I've been swallowing bumblebees for you. I don't think you even noticed. I don't think you even know. Mr. Eastwood, you could have just walked away and nobody would have talked to less of you for it. All it would have been was words, hot air from a buffoon. Instead, you let him roil you. Roil you into playing his game, his way, by his rules. Seamus, relax, I know what I'm doing. He reminds me of poor Martin. Aye. Who? Me brother. Wait a minute. You have a brother named Martin McFly? Not a brother. Martin used to let men provoke him into fight. He was concerned that people would think him a coward if he refused. That's how he got a bowie knife shoved through his belly in a saloon in Virginia City. Never considered the future, poor Martin, God rest his soul. Sure, and I hope you're considering the future, Mr. Eastwood. Okay, I had you in my sleep. Never mind the blown charade, uncertainty. No. Ah, i bei tempi di quando andai sposa e lasciai il mio paese per venire a Roma. La sapete la canzone? Quando la ciociara si marita, a chi tocca lo spago e a chi la ciocia. Ma io diedi tutto a mio marito, spago e ciocia, perché era mio marito e anche perché mi portava a Roma ed ero contenta di andarci e non sapevo che proprio a Roma mi aspettava la disgrazia. Questo era l'incipit della ciociara di Alberto Moravia. In space, Rocky went up. In smoke for the crowd. With lunar ideas he got lost. With pinball eyes and lots to see. I'm coming up on you. There's not a thing that you can do. I'm coming up on you. Oh. È la seconda parte di Eclettica in compagnia di Giulio Caperdoni sulle frequenze di Rock FM, seconda parte che è cominciata ormai da parecchi minuti, infatti siamo attorno a poco meno della metà della trasmissione. Abbiamo aperto con Kelly De Martino, statunitense, ma una carriera che si sta sviluppando in Francia con Bubble Bees, poi da New York l'autoproduzione dei Kaku Kanu, ascoltati con Alaska Wolf's Lay, e infine 17 Evergreen appena passati con Luna One. Ed ora un altro brano natalizio nelle intenzioni e nel titolo, anche se poi il contenuto sia dal punto di vista del testo che della musica, non sembra così tradizionalmente natalizio. Appartiene ad una compilation australiana dell'etichetta australiana della formazione, che invece per il resto del mondo incide per la Dead Oceans, formazione di nome Evangelicals, e questa è The Last Christmas on Earth. Consider the future, poor Martin. God rest his soul. Sure, and I hope you're considering the future, Mr. Eastwood. I think about it all the time. 1, 2, 3, 4. They told me about the strawberry fields, living in a mixtape and picking all the fruit that yield. I made a tape so you could see it was real. I dubbed you a copy so you could see how I feel. You can never ever truly be free of the things I sell you, but you can't get.

Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 8, volume numero 4, indice, The Wrens, Frightened Rabbit, Azobi Sexu, Siberian, Caribou, Circus Devils, Cali De Martino, Kakukano, 17 Evergreen, Evangelicals, Creeping Weeds, e a chiudere ci siamo ascoltati il duo giapponese Tennis Coats. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.